a questo incontro concentrato di una giornata. Sono felice di aver ripreso, dopo l'interruzione di un anno, quasi la consuetudine che avevamo già di un incontro particolarmente destinato ai colleghi del Triveneto e circonvicini, vero? Che è stato un po' interrotto l'anno scorso, interrotto non si può dire proprio, surclassato se vogliamo, vero? Superato il continent dal grosso congresso di teologi italiani, ma che ha un po' interrotto il ritmo annuale di questo incontro di primavera che eravamo soliti a fare. E mi rallegro anche per la venuta qualitativa, l'intervento di amici e personaggi molto qualificati che forse senza dubbio in questa occasione mi pare che siamo un po' meno numericamente, ma invece siamo molto più nutriti quanto alla qualità delle presenze, e questo secondo me giova al lavoro di questa giornata, che si profila così, a dirlo con sincera verità. Siamo partiti con l'idea di un grosso congresso di più giorni su questa tematica del martirio, che ho visto suscita interesse nei più vari settori. Un programma molto articolato era stato messo insieme dal professor Leonardi come coordinatore, dopo però interpellati i vari personaggi che erano stati previsti in questo programma sulla carta, in realtà i risultati sono stati molto frammentari, per cui ci siamo trovati di fronte alla decisione, cioè abbiamo capito che bisogna maturarlo meglio, un convegno di quel genere, lasciarsi più tempo, riflettere di più, prendere anche ulteriori contatti più diretti, e che dunque il termine di tempo che era stato previsto da prima, proprio per questi primi giorni di maggio, certamente non sarebbe bastato per organizzare un convegno di quella portata e di quella vastità. Tuttavia avevamo alcune preziose adesioni e non volevamo neanche proprio saltare l'occasione di un incontro più ristretto in quest'anno, e allora abbiamo raccolto i preziosi frammenti di quello che sarebbe stato il programma complessivo, che sono le quattro relazioni che ci sono sul tavolo per questa giornata, e abbiamo pensato di fare lo stesso l'invito che è rivolto tanto di più a tutti, perché lo intenderei veramente come un momento di riflessione preliminare su un argomento molto grosso. Quindi mi immagino, o chiedo per quanto possibile, anche veramente la collaborazione, il contributo di discussione, di riflessione sul modo come si potrebbe articolare in maniera più completa tra 6 mesi, tra un anno, insomma, ecco, anche suggerimenti di persone e così via, vero, per fare poi un passo avanti più decisivo. Così che mi immagino che la giornata di oggi dovrebbe veramente avere più carattere di seminario, di ricerca e di dialogo anche proprio non convenzionale, quasi una commissione allargata che cerchi insomma di darci dei lumi per afferrare un po' di più questa grossa iniziativa che si è rivelata strada facendo, come ho detto, più grande di noi. Ecco, proprio per questo io affido subito in modo superlativo al nostro caro Monsignor Sartori la direzione tecnica e scientifica di questa giornata, proprio perché nessuno meglio di lui può aiutarci anche a sintetizzare i pensieri. Lascio a lui anche il compito di presentare uno dopo l'altro i singoli oratori. Scuso semplicemente, cioè mi devo scusare, della non presenza, da un lato, di Leonardi, che dovendo recarsi in Germania ancora questa settimana, insomma, ha chiesto di essere sollevato, e dall'altro, qui devo proprio prevenire un'eventuale delusione, altrimenti, del padre Leclerc, il quale ci teneva a venire, veniva volentieri. Vi dirò in confidenza che gli avevo fatto una telefonata in gennaio quasi più per, cioè, per spiegargli che sarebbe stato un convegno ristretto, che non sarebbe stato il grande congresso, eccetera, eccetera, e che quindi in ogni caso non volevo pregiudicarmi la sua presenza a quello successivo. E ho capito che lui ben volentieri, anzi faceva già calcolo di esserci e a questo e a quello. E quindi l'ho messo in programma. Purtroppo 8 giorni fa mi è arrivato dall'America una lettera dove dice che per ragioni di salute lui rientra più tardi di quello che aveva programmato e che si scusa di non poter essere con noi quest'oggi. Ecco, dunque, siamo di fronte alle 4 relazioni che però mi pare che sia per i relatori sia per la tematica, pur presentandosi con una certa frammentarietà, però insomma ci danno un contributo molto, molto valido per iniziare questa riflessione. Ringrazio tutti e prego Luigi Sartori di assumere la guida della nave. Bene, allora noi ringraziamo, cioè a nome vostro io ringrazio Monsignor Roger di questa ospitalità e di questo interesse per la crescita della teologia italiana. Domando scusa anch'io con lui e tramite di lui se sono mancate 2 voci che rendono forse meno pesante anche tra l'altro il nostro incontro, però sono 2 voci che erano abbastanza interessanti. Io mi limito introducendo a dire che il tema lo riteniamo penso tutti importante, però lo vedremo meglio attraverso il dibattito. È un tema importante perché penso sia molto ricco di problemi, almeno a specchio di tante altre problematiche. Io segnalo semplicemente in maniera introduttiva il mio itinerario di sensibilità. Io ho sentito questo problema soprattutto sul fronte ecumenico. Nel 1970 il gruppo misto teologico Roma-Ginevra ha elaborato un documento sulla testimonianza comune e il proselitismo. Però dopo, a Bangalore nel 1978, nell'Assemblea di Fede e Costituzione, si è discusso del grande tema che investe tutte le chiese, rendere conto della speranza che è in noi. Le chiese sono provocate oggi a dimostrare la significatività del Vangelo, quindi a interessarsi di un fronte, diciamo, che privilegia la speranza e non, direi, immediatamente la fede. La fede sarebbe come il ceppo nascosto che nutre la speranza, ma il mondo ha bisogno che il cristianesimo sviluppi speranza. In quella sede, a Bangalore, un gruppo ha trattato del tema del martirio. Ho avuto la fortuna di essere ingaggiato in questo gruppo, dove c'erano anche persone che avevano sofferto torture, eccetera, sia del mondo dell'America Latina che dei paesi dell'Est, per cui da quel gruppo è uscito un testo che io ritengo veramente strepitoso sul martirio, che è stato poi pubblicato anche nella rivista Credere Oggi, nel numero 24, dove appunto io stesso ho fatto un bilancio sia di quel convegno come di altri testi ecumenici con un articolo già nel 1984, dunque Martirio e martiri in una chiesa di speranza, e il documento di Bangalore è stato stampato lì, quindi la mia sensibilità è rivolta a quel tipo di discorso, tanto più che poi nell'81 lo stesso gruppo misto tra Roma e Ginevra ha elaborato un bellissimo testo intitolato La testimonianza comune, dove all'interno di questo discorso della testimonianza comune il tema del martirio riaffiora, anzi un progetto di Fede meglio di Ginevra, del Consiglio Ecumenico delle Chiese, è di elaborare un calendario dei confessori di oggi che valga per tutte le chiese, come a dire che oggi il fronte più aperto della Chiesa dovrebbe essere il fronte dei confessores, dei testimoni e dei martiri. Ecco, allora questa è la mia sensibilità, ma penso che poi all'interno di questo discorso presentato così globalmente ci sono una serie di altri problemi che ci dovrebbero interessare. Io ricordo quando studiavo teologia il martirio era adoperato solo in senso apologetico, per dimostrare la vera religione, la vera Chiesa, l'argomento dei martiri, e si trovava un po' di difficoltà quando dovevano anche nelle note, i nostri testi scolastici, accennare che anche altre confessioni hanno dei martiri. Sentire che il martirio, prova apologetica, non funziona in maniera così escludente, esclusiva, ma che forse altrove ci sono dei martiri, metteva un po' in crisi, ripeto, me stesso. Adesso ormai questa dimensione apologetica, diciamo, non può più reggere, il martirio deve essere collocato in una prospettiva molto più ampia. Basta pensare anche alla canonizzazione di martiri dell'Uganda, dove alcuni dei martiri non sono cattolici, sono anglicani. Abbiamo il caso quindi di un martirio che è più diffuso, poi a livello secolare, di secolarizzazione, martiri sono un po' tutti coloro che, direi, vanno fino in fondo nella dedizione a una propria bandiera, eccetera. Quindi un sacco di problemi che io qui adesso non sto elencando, li ho elencati. Ma poi oggi sono nati altri problemi, penso che Rizzi il pomeriggio e poi soprattutto anche padre Piacentini discuteranno di questo problema, di una nuova icona di martire oggi che deve fare i conti con chissà che cosa, insomma, adesso appunto non sto per ripetere quelle cose. Dirò soltanto questo, a me sembra, è un tanto per provocatoriamente introdurre il discorso, che delle tre famose cosiddette categorie riassuntive della linea del Vaticano II, coinonia, diaconia e martiria, le prime due sono state abbastanza sfogliate dalla teologia, coinonia, comunione, partecipazione, così anche la diaconia, la ministerialità. A me sembra che debba venire l'ora in cui anche si discute della martiria, della testimonianza, ecco. Soprattutto se si tiene conto di una certa scelta che anche qui abbiamo ridiscusso in questo stesso istituto, non però l'Istituto di Scienze Religiose, in quel volume che è uscito su potere, il potere, la linea del potere che privilegia per così dire l'era costantiniana è una linea che è una via insomma difficilmente battibile. Al posto del potere le chiese oggi sono chiamate su tutti i fronti a evidenziare più la linea della testimonianza, diremmo del martirio, ma ci può essere sotto un grosso problema. Forse che la via del martirio non potrebbe lo stesso essere, si diceva venendo su con degli amici, lo stesso propositiva di uno schema del nemico? Perché anche il vittimismo di chi si mette nella prospettiva dei martiri e non dei persecutori, dei vincenti, degli egemoni, potrebbe essere alimentata da un senso, diremmo, di masochismo, ecco, per evidenziare l'altro come un contro di te, un nemico tuo. Voglio dire che non c'è una purezza nemmeno in questa scelta della linea della testimonianza del martirio. Come vedete, solo per provocare un dibattito ho introdotto alcune problematiche, ma sono solo alcune che io ho colto studiando il problema dal punto di vista ecumenico. Allora, ecco perché questo convegno penso potrebbe essere utilissimo se noi utilizzando anche, non dico la provvidenzialità, ma l'accidentalità della carenza di due oratori avremo più la possibilità di discutere noi. È un'accidentalità che ci permette allora di discutere di più. Direi che però il fronte della problematica rimane lo stesso disegnato sufficientemente, perché questa mattina abbiamo due relazioni che ci introducono al passato, nelle fonti, all'inizio del cristianesimo. Ecco il momento biblico, sono benvenuto, il momento patristico, professor Moreschini. E poi invece il pomeriggio l'attualità l'oggi, il martirio oggi come lo viene disegnato, specialmente penso nell'America Latina, e poi con questa anche nuova figura di santo che padre Piacentini ci illuminerà nelle canonizzazioni di Kolbe e Brasma, che rappresenterebbero forse una delineazione di una nuova lettura del martirio da parte della Chiesa. Dunque il fronte di ieri e il fronte di oggi sono, direi, sufficientemente, penso, rappresentati, se si intende questo nostro convegno come l'avvio di un convegno che dovrà essere di 5, 6, 7 giorni. Ringraziamo dunque tutti i presenti, soprattutto i quattro che non hanno disertato, e cominciamo ringraziando il professor Benvenuto, il quale dalle navi, dall'ingegneria, del porto di Genova, la superba d'Italia, con la sua umiltà si interessa anche di teologia, e di teologia radicale che va alle radici, alle fonti della Bibbia, e allora è un nostro carissimo, tra i più fervidi collaboratori dell'Associazione Teologica Italiana. Ecco, basta così, grazie del tuo intervento, già in anticipo. Devo dire che il tema mi ha molto turbato quando mi è stato proposto e anche solleticato, Gesù Cristo martire, la figura di Gesù come figura di martire. E dove è mai scritto che Gesù Cristo è martire? Certamente abbiamo passi straordinari dei sinottici e di Giovanni, dove i discepoli sono chiamati a rendere testimonianza. e torneremo su questa dolorosa testimonianza, questa testimonianza che unisce le due dimensioni del martirio, cioè la dimensione testimoniale e la dimensione della sofferenza. Ma la testimonianza di Gesù dove viene espressa? Io credo che sia un testo importante da citare, l'Apocalisse, dove, secondo anche il padre Koenen, c'è l'unica frase che definisce espressamente Gesù come o martis o pistos, il testimone fedele, aggiungendo o prototokos ton necron, il primogenito dei morti e il principio del ton basileon della regalità. E questo ha dei richiami biblici che sono naturalmente facili ad essere individuati. Isaia 55,4, ecco l'ho costituito testimonio tra i popoli, principe e sovrano tra le nazioni. O il Salmo 89, dove si dice in eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. Nella stessa Apocalisse c'è, di lì a poco, nel capitolo 3, al versetto 14, il ritorno della parola il testimone fedele, o martis o pistos, kai alethinos, e verace. E non è un caso che questa espressione avviene nel momento in cui si parla della chiesa di Laodicea, proprio quella, la tiepida, quella che suscita il vomito. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, cioè non sei né caldo né freddo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, ma invece sei un infelice, un miserabile, un povero cieco e nudo. Ecco, mi è sembrato interessante partire dall'Apocalisse, cioè dall'ultima parola, da questo risuonare nell'escaton, dove il Cristo è salutato, o martis, o pistos. Ma nel corso della sua vita terrena, la testimonianza, la martiria di Gesù, si connette ad un profondo ed enigmatico problema, cioè il problema della identità stessa di Cristo. Laddove l'espressione linguistica ricorre, ed è soprattutto in Giovanni, il martireo peri, dove ecco, testimoniare su o dare testimonianza a, dove ciò che segue è generalmente Gesù stesso. E la questione mi sembra sia affrontata in modo splendido in Giovanni 5. Notiamo il contesto, che è sempre significativo, è la guarigione dell'infermo della piscina di Bezzetà, una guarigione di sabato, e annota Giovanni, per questo i giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose di sabato, perseguitare Gesù. E Gesù allora riprese a parlare e disse sostanzialmente due cose. L'una, la pienezza di comunione tra il Padre e il Figlio, sino al potere sulla vita e sulla morte. Secondo, disse sostanzialmente che la testimonianza di Gesù a se stesso è intelligibile solo per chi creda già a colui che Dio ha mandato. Se fossi io a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. Ea ego martyro peri emautu. Ma c'è un altro che rende testimonianza per me. E badate qui l'aggiunta. E so che la testimonianza che egli mi rende è verace. So. Ecco, direi che il nocciolo della testimonianza di Gesù è questo sapere. Sapere la vericità di Dio che si esprime nelle opere a Lui affidate dal Padre, a Gesù affidate dal Padre. Però il sapere di Gesù non può essere comunicato agli altri se non nella forma di una partecipazione di fede. A questa condizione, solo a questa condizione, la martiria di Gesù è precisamente la sua stessa identità, manifestata dalle sue opere, a cui la rivelazione del Padre dà testimonianza. Guardate l'intrico, lasciatemi dire, epistemologico di questo discorso. Perché non si tratta di una testimonianza per altro, ma si tratta della vita stessa e l'apparire di un altro testimone, che è Dio stesso. E giustamente Bultmann nel 57 rileva proprio a proposito di Giovanni 5, 36 e seguenti, dice: l'oggetto della fede si manifesta solo nella fede. Il criterio di verità del messaggio è il suo stesso contenuto. E anche Brox in Zeuge und Martyrer del 61 considera questo paradossale nodo epistemologico come ciò che caratterizza la teologia giovannea sulla martiria. La legittimazione della testimonianza, dice Brox, e le prove della sua verità consistono nell'appello ad un'autorizzazione non dimostrabile, avuta per mezzo di una rivelazione. Ma allora qui è chiaro che all'occhio della ragion pura, questo passaggio di una testimonianza a se stessa che appella ad altro, che però non può essere comunicato se non attraverso la rivelazione, è semplicemente un circolo vizioso. Cioè, le testimonianze addotte a prova presuppongono quello che vogliono provare. E invece all'occhio della fede, questo circolo vizioso non è uno scacco del pensiero, ma per dirla heideggerianamente potremmo dire è il suo evento trionfale. E la cosa viene benissimo in luce in Giovanni 8. Questa volta l'episodio che precede la discussione sulla martiria non è la trasgressione cultuale sacrale del sabato, come in Giovanni 5, ma è la trasgressione diretta della legge e delle sue sanzioni. È l'episodio dell'adultera. Immaginatevi che chiesa si può costruire se la punizione può essere inflitta soltanto da chi è senza peccato. È l'intero sistema etico e politico di Israele che viene sconvolto, messo in discussione. Gli dissero allora i farisei: «Sì, peri seau tu martyreis», tu intorno a te stesso, e allora è martiria su uchestin alecces, non può essere vero. E Gesù rispose: «Certo, anche se io martirò per ie mautu, c'è verità alecesestin nella mia testimonianza. Oti oida potzen elson caipu ipago, poiché io so da dove vengo e dove vado». Nuovamente il sapere. Il sapere da dove si viene e dove si va è ciò che Gesù professa ed è ciò che fonda la sua testimonianza. L'argomento di Gesù si svolge qui con una coerenza quasi beffarda nei confronti del legalismo ecclesiale, sinagogale potremmo dire, ma sinagoghe ed ecclesia sono sorelle prossime. Dice Gesù, nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Orbene, sono io che do testimonianza a me stesso, ma anche il Padre che mi ha mandato mi dà testimonianza. Quindi secondo la legge due sono. Ecco, allora chi nella Chiesa, dinanzi all'autorità vicaria della gerarchia ecclesiale, pretende di addurre Dio in testimone e professa di dover obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, mette in discussione la struttura stessa della Chiesa. E allora è giusto che i giudei gli abbiano detto: e dov'è il tuo padre? Ed egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Se no, notate ancora l'equazione ultimativa, unica parola del Cristo, la testimonianza è il io sono. E allora, vi ho detto, se infatti non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati. E allora i giudei gli dissero: e tu chi sei? Guardate che questo passaggio è molto importante per arrivare alla martiria, nel senso del martirio come comunemente può essere inteso. Gesù disse loro: proprio ciò che vi dico. Avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto, ma colui che mi ha mandato è veritiero e io dico al mondo le cose che ho udito da lui. E non capirono che parlava del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Tote noceste oti ego ei. E non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, io parlo. Ed ecco allora il punto essenziale, il paradossale circolo vizioso della martiria di Cristo perviene al suo evento trionfale nella fede, non appena si congiunga al paradosso della croce. Giovanni 12, 31. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. E questo diceva, aggiunge l'Evangelista, per dire di qual morte doveva morire. Cioè la martiria di Cristo scioglie il catenaccio del circolo vizioso nell'evento del suo martirio, ma nel senso della grande sofferenza sino alla morte, che capovolge l'ordine del giudizio. Guardate l'aspetto epistemologico che si connette al martirio della croce. Il precedente domandare dei giudei era volto a formulare un giudizio su Gesù, sul valore della sua martiria. Ma nell'evento della croce, l'abbiamo letto poco prima, nell'evento della croce il giudizio capovolge il suo orientamento. Ora il giudizio è su questo mondo e ora Satana ne è cacciato fuori. Cioè il mondo non è più giudice, ma giudicato. Satana è appunto questo. Satana è che il mondo abbia il suo principe che determina il giudizio. E il martirio della croce getta fuori del mondo il suo principe. E dona al mondo il consolatore che convincerà il mondo intorno al giudizio. Quanto al giudizio, poiché il principe di questo mondo è già stato giudicato. Ecco, allora penso di poter dire che l'orizzonte che consente all'uomo di partecipare al sapere di Cristo e di confessare escatologicamente o amen, o martis, o pistos, kai alezinos, è l'orizzonte nel quale non più il mondo giudica la fede, ma la fede il mondo. È l'orizzonte nel quale il principe di questo mondo è già stato giudicato e ne è cacciato fuori. Ma qui è appunto il problema dell'escaton. L'escaton per l'homo viator, che siamo noi. Ecco, si ribalta nella storia alla quale noi ci partecipiamo nella forma di un già e non ancora. l'una volta per tutte, l'Epaphax dell'evento di Cristo illumina la storia sino all'ultimo giorno nella duplice luce del già e del non ancora. Già e non ancora la fede può giudicare il mondo, già e non ancora il principe di questo mondo è stato gettato fuori. E allora il compito speculativo che ci chiama è appunto quello di cogliere questa duplice luce che ci manifesta la grazia e la verità, lo scandalo e la follia unite insieme in convivenza inquietante, la potenza di Dio nella sua debolezza. E allora a questo punto tenterò di iniziare il cammino di questa parte presentando due testi che credo siano particolarmente importanti per capire il problema del martirio in Cristo. Sono due testi convergenti. In taluni punti le parole si identificano, eppure sono infinitamente distanti. Devo dire, l'un testo quasi ignoto agli evangelisti e notissimo alla Chiesa successiva, sino ai giorni nostri. L'altro testo notissimo agli evangelisti e quasi abbandonato dalla Chiesa successiva. Io amo pensare che nella via di Emmaus il viaggiatore avesse discusso appunto di questi due testi. Uno è Isaia 53, quasi è inutile che ne riporti le frasi. È l'interpretazione: il servo di Yahweh, vittima vicaria, s'addossa i peccati del mondo. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. E per lui, attenzione, la finale, per lui, dopo il suo intimo tormento, ecco, Dio gli consente di vedere la luce ed egli si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti e si addosserà le loro iniquità. Ma è la salvezza, il premio delle moltitudini, dei potenti egli farà bottino, proprio perché è stato annoverato tra gli empi e ha interceduto per i peccatori. L'altro testo è un testo che, devo dire, ho capito assai poco, ed è il Deutero Zaccaria, dal capitolo 9 al capitolo 12. Ecco, in questo Deutero Zaccaria si inizia con un'esultazione alla figlia di Sion: giubila, figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino. E questo sarà notato dagli evangelisti. E poi passa a parlare dei pastori. E su questi pastori, veramente, io ho dei dubbi che presento a voi infinitamente più dotti e competenti di me, perché ci ho capito veramente poco. Presi due bastoni, uno lo chiamai benevolenza e l'altro unione, e condussi al pascolo le pecore. Però egli si era messo a pascolare le pecore da macello, da parte dei mercanti di pecore. Io mi irritai contro di loro, perché anch'esse si erano tediate di me. Perciò io dissi: non sarò più il vostro pastore. Chi vuole morire muoia. Quelle che rimangono si sbraniano pure tra loro. Presi il bastone benevolenza, lo spezzai, ruppi l'alleanza tra me e tutti i popoli. E i mercanti di pecore che mi osservavano riconobbero che quello che era l'ordine del Signore. Poi dissi loro: se vi pare giusto, datemi la paga. Essi allora pesarono 30 sicli d'argento come mia paga. Ma il Signore mi disse: getta nel tesoro questa bella somma con cui sono stato valutato. Quindi il Signore mi disse: prenditi gli attrezzi di pastore insensato, poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non avrà cura delle pecore che si perdono, non cercherà le disperse, non curerà le malate, non nutrirà le affamate. Mangerà invece le carni più grasse e strapperà fino loro le unghie. Oracolo, parola del Signore su Israele, in quel giorno. Ecco, qui state attenti perché è un punto fondamentale. In quel giorno riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno lutto, come si fa lutto per un figlio unico. Lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento di Gerusalemme. Farà lutto tutto il paese, famiglia per famiglia. In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. In quel giorno io estirperò dal paese i nomi degli idoli e non saranno più ricordati anche i profeti e lo spirito immondo. In quel giorno ogni profeta si vergognerà della visione che avrà annunziato e non indosserà più il mantello di pelo per raccontare bugie. Insorgi spada contro il mio pastore, contro colui che è mio compagno, oracolo del Signore degli eserciti, percuoti il Signore e sia disperso il gregge. Allora volgerò la mano sopra i deboli. Qui il mistero è veramente grande. Qui la commistione tra un futuro di salvezza e una infinita sofferenza, un tradimento che entra nella fibra, nell'intima essenza della stessa struttura ecclesiale, della stessa comunità ecclesiale, raggiunge l'apice della sua drammaticità. Insorgi spada contro il mio pastore, ma l'evangelista ricorda: percuoti il pastore e sia disperso il gregge, come riferito a Cristo. E è ben diverso quel guarderanno a colui che hanno trafitto, citato da Giovanni, rispetto a egli è stato trafitto per i nostri delitti. Qui Füglister in Mysterium Salutis ha una pagina bellissima sull'argomento, notando proprio l'infinita differenza che passa tra Isaia e Zaccaria. In Zaccaria è il trafitto in quanto tale che diventa occasione di pentimento. Non ha un ruolo vicario, riscattatore. E sono parole di Füglister: siccome tale pentimento rende possibile lo sgorgare di un'acqua purificatrice, egli diventa una concausa di salvezza. E allora di qui si può, con passaggi che abbrevio per... Anzi, vi chiedo scusa, quanto mi aspetta ancora? 5 minuti? Sì. 10 minuti. Con riferimento a questi testi, dice Füglister: il trafitto acquista un ruolo straordinario, divino. Gesù non è soltanto l'inviato di Dio nella carne del pastore condotto a morte, ma anche il Dio trafitto. E sul trafitto ci sarebbe da fare una discussione anche di carattere linguistico che ometto. Tant'è vero che nella confessione di Tommaso, guardando il costato trafitto del risorto, Tommaso dice: mio Signore, mio Dio. Ecco, non è un caso che nel racconto del martirio di Cristo il riferimento dei sinottici di Giovanni è sempre a Zaccaria. Matteo 26, Marco 14, Matteo 27 e così via, e Giovanni 19. E invece Isaia 53 appare nella proto predicazione, e non a caso, guardate, non so se siano armonie volute o dagli uomini, sono state volute da Dio. Chi vi pose gli occhi sopra? Su Isaia 53 fu un etiope, un eunuco funzionario di Candace, regina d'Etiopia. L'episodio di Filippo e la scoperta di questo valore stupendo che poteva avere l'interpretazione del riscatto per il convincimento di molti, per la giustificazione stessa del dato neotestamentario della morte di Cristo, del fallimento terreno della sua vita. Tant'è vero che Isaia 53 poi diventa il grande argomento che dà ragione dello scandalo, anche senza spiegarlo, lasciandolo intatto nella sua dimensione di scandalo e follia, però è il grande argomento dinanzi ai gentili, è inutile che citi Romani 3:23-26, dove esplicitamente c'è la citazione dell'aspetto vicario, poi e sia rispetto agli ebrei. Sia rispetto agli ebrei. Ebrei 7:26-28, Ebrei 10:8-10, ma tutta Ebrei 10, con ciò stesso egli abolisce, dopo aver detto io vengo a fare la tua volontà, abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo. Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Cristo, fatto una volta per sempre. Ed ecco allora un'ipotesi paradossale che vi vorrei proporre, pregandovi soltanto di non condannarmi subito, anche se questa sarebbe una forma di marturia me inflitta. Ecco, io vorrei proporvi questa linea di ricerca. Il già e il non ancora, in cui si rifrange nella storia la verità escatologica della confessione o martyr o pistos, consente, o forse esige, di cogliere una profonda differenza nel medesimo evento della croce. Due versanti contrapposti, come una sorta di giano bifronte, uno che guarda l'infinito passato, l'altro che guarda l'infinito futuro. La croce come sacrificio è il già, l'una volta per sempre, il tutto è compiuto. L'argomento che giustifica ad extra rispetto ai popoli e rispetto a Israele. La croce come martirio è il non ancora, è il cammino della Chiesa, è il mistero del completamento di quel che manca ai patimenti di Cristo. Tutto è compiuto da un lato. Il completamento di quel che manca ai patimenti di Cristo. È il racconto, fatto di opere anche, che solo nella fede e nella comunità della buona novella prende senso. È la prolessi dell'Amen, testimone fedele, dell'ultimo giorno, a cui è consegnato il giudizio di tutto. Ecco, questa contrapposizione frontale, non voglio chiamarla dialettica perché la dialettica è un termine troppo intasato di significati divergenti, ma questa, chiamiamola pure dualità, nella semplicità della parola, sacrificio-martirio. Ecco, vorrei illustrarla in una contrapposizione di connotati. Cristo è l'ultima vittima sacrificale. Cristo è il primo martire. Matteo 10 ce l'annuncia, un discepolo non è più del maestro, né un servo più del suo padrone. Se hanno chiamato Belzebul padrone di casa, quanto più sarà dei suoi familiari. Secondo, la dimensione sacrificale è kerigmatica. Il martirio di Cristo, un martirio che inizia sin dalle prime fasi della sua predicazione. Per l'ostilità, l'indifferenza, il desiderio di lapidarlo, il cacciarlo via, sino alla decisione definitiva della sua condanna a morte, è il martirio di Cristo da parte dei suoi, badate, della sua Chiesa. Ebbene, è la narrazione della sua vita. Luca ci ha dato le tappe essenziali, basta leggerle queste tappe per capire questo crescendo di un martirio che alla fine si conclude nella croce. Terzo contrapposizione, il sacrificio è per la redenzione di tutti, giudei e gentili nel sangue di Cristo sono salvati. Il martirio. Il martirio è assai più inquietante. Leggo Luca. Per questo, dice Gesù, la sapienza di Dio ha detto, manderò a loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché sia chiesto a questa generazione del sangue di tutti i profeti, versato sin dall'inizio del mondo, da Adamo, Zaccaria. Dunque il martirio chiama in causa la responsabilità di questa generazione, del sangue dei martiri di cui noi dobbiamo render conto. Quarta contrapposizione. Il sacrificio toglie il peccato mediante colui che si è fatto peccato. Il martirio abolisce la legge nel superamento paolino di questo, mediante colui che si è fatto obbediente sino alla morte e alla morte di croce. Quinta, il sacrificio è compiuto, tutto è compiuto, il martirio di Cristo è incompleto, l'ho già detto prima. Sesta, e questa è di nuovo inquietante per me, nel sacrificio di Cristo sono rapacificate tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra, come cantiamo nell'inno paolino. Il martirio è la spada, è la separazione nel seno del popolo di Dio. Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera. I nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Ecco questa prospettiva futura del martirio dei cristiani, di cui Cristo è primogenito. I nemici nella casa. E Giovanni aggiunge, vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Dunque una prospettiva addirittura di rendimento cultuale a Dio nel martirio dei fedeli di Cristo. Settima, forse siamo giunti. Il sacrificio è il mistero che richiama alle più lontane origini della cultualità, del rapporto tra Dio e l'uomo. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec, il re di Salem. È un mistero, quindi, nella luce misteriosa del sacrificio che può essere abominio, ricordiamoci Isaia, mi fanno abominio i vostri sacrifici senza nome, superato e non tolto il sacrificio di Abramo e di Isacco, che contraddiceva la promessa, ma fu sospeso, ma non cancellato perché c'era l'ariete della sostituzione. Il martirio invece è immediatezza futura, evidente, perché dopo quella frase che ho citato prima, anzi prima di dire non crediate che sia venuto a portare la pace, e subito dopo aver detto se hanno chiamato Belzebù il padrone di casa, che faranno di voi? Non li temete dunque, perché nulla vi è di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifesto. Ecco all'interno della comunità della buona novella, in cui il martirio è appunto la forma della testimonianza nella sua sofferenza, questa certezza che il mistero non c'è. Non c'è nulla di misterioso che non debba essere svelato. Chi parla troppo di mistero può anche nascondere qualcosa di losco. Perché nulla può essere, nulla c'è di così misterioso che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifesto. Infine, il sacrificio glorifica la trascendenza divina. Ottavo questo. Ottavo. E il martirio invece eleva, solleverò, quando sarò elevato, l'umanità del martirio. Se vogliamo, nel sacrificio il moto è ascensionale, nel martirio il moto è discensivo. Tant'è che, nono punto, la vittima sacrificale dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma il martire dice: in manus tuas, Domine, commendo spiritum meo. Ecco, non so se questo tipo di interpretazione possa essere valida, la discussione lo dirà. Bene. E qui concludo, grazie. Grazie. Allora ringraziamo il nostro professore di architettura, di ingegneria, di meccanica teorica. Allora, è il nostro laico, il quale ha voluto sfidare i biblisti, e il quale ha voluto mostrare come una mentalità laica e problematica, come una spada introduce problemi nella esegesi e lettura biblica, e anche ipotesi di lavoro, e si sottomette, se lo sottomette adesso agli scrivi, se vogliono, ecco, fare degli interventi, qui abbiamo dei biblisti, la sua ipotesi, il suo modo di leggere la Bibbia metodologicamente, la spiritualità che ci ha messo, eccetera. Lo ringraziamo perché è stato molto fedele al, si diceva tre quarti d'ora, non sei arrivato tre quarti d'ora, hai fatto 40. Quindi abbiamo adesso la possibilità di una ottima mezz'ora di studio, di dibattito, più di mezz'ora, 35 minuti, poi abbiamo un 25 minuti di aria aperta, alle 11 riprenderemo. Allora c'è qualche testo biblico trascurato, cioè, qui abbiamo parecchi biblisti, abbiamo Greci, abbiamo Milani, abbiamo chissà quanti nascosti dietro lì. Tu, Milani, Tu? Io pensavo a Gesù davanti a Pilato di Giovanni, che sono venuto e nato per rendere testimonianza alla verità. Per lì c'è la situazione di Tibio, ma che in confronto con l'autorità, il rapporto martirio in un contesto pubblico di affrontamento all'autorità e l'affermazione che lui è nato e venuto la missione per testimoniare la verità, per testimoniare la verità. Quindi c'è questo ruolo di testimoniare la verità, c'è tutto il discorso su cos'è la verità, la domanda che cos'è la verità, e che sì, cioè, non, egli non vede in quel caso testimonianza se stesso, ma testimonia la verità. E la domanda di Pilato non è banale, insomma, non è un scettico banale, no, ma è a questo punto la stessa evangelista che sollecita la riflessione, ma è una semplice, Ma io non è che ignorassi il testo, perché non l'ha analizzato 5 e 8 non ha analizzato questo testo. Perché in 5 è data la chiave di, almeno penso di che cosa vuol dire essere testimone della verità. Quando dice io so che colui che mi dà testimonianza è verace, cioè è la verità di Dio. E ha ragione Pilato a chiedere che cos'è la verità, ed è giusto che il dialogo si sia interrotto lì, perché non era possibile, cioè non mi pare che si tratti del che la domanda di Gesù, la domanda di Pilato e la risposta di Gesù possono avviare un discorso epistemologico sul concetto di verità. Appunto, è essenzialmente la verità di Dio. Milani, vai. Non penso che sia il problema di tanti testi, forse. Volevo due domande, così come mai parlando di Zaccaria non ha citato molto Giovanni 10, che mi sembra riprenda proprio il tema di Zaccaria in maniera in sottofondo continuo, cioè il tema del pastore, che riporta però una seconda domanda, secondo me, il problema della solitarietà più che della sofferenza vicaria. In questo senso, perché emergono i profeti esilici, la cui sofferenza è legata estremamente all'essere tra popolo, uomo di frontiera si dice, no? A essere tra popolo e Dio. Solidari con Dio devono dare il messaggio al popolo, solidari col popolo in conflitto con il popolo. Mi sembra che se recuperiamo un po' di più questa sottolineatura, emergono a parte il mistero del conflitto, il mistero dell'incomprensione, il mistero dell'incomunicabilità da una parte, però dall'altra anche il, direi, la razionalità coerente, quel essere adulti che permette di superare il vittimismo. È la situazione che mi porta un coraggio o una paresia particolare, perché devo affrontare una situazione che è più forte di me, quindi non è che demonizzo l'altro, non è il nemico, ma è la situazione che affronti in quanto tale in maniera molto adulta, ecco, più che testi, direi questi due approcci qua che mi sente, quello di Giovanni e il pastore e poi il tema della solidarietà, cioè dell'essere coinvolti con, quindi è testimonianza all'interno della comunità, ed essere coinvolti con l'umanità, testimonianza all'interno dell'umanità più che contro l'altra umanità, eccetera. Sottolineava lei molto bene, mi sembra, il mistero è qualcosa di già avvenuto, ma è qualcosa di già realizzato, quindi che bisogna manifestare a tutti, quindi è il buon annuncio dire questa è una realtà già avvenuta, che si tratta semplicemente di spargere, di sviluppare. Forse è interessante questo dibattito, perché accennavo prima, uno dei problemi potrebbe essere questo, che l'appello al martirio fortifica la contrapposizione, cioè anche come vittime, no? Il contra. Lui, adesso dovresti provarlo, lui dice che, sembra che lui dica, che oltre allo schema della, diremmo, la contrapposizione o della dialettica, il vicario a nome, perché subisce e salva perché viene quasi trafitto, introduce il concetto di solidarietà, più che l'essere contro, lo stare con. E questo per me è un tema da affrontare un po' di più per vedere se si può far fruttificare qualche cosa. Che non si possa sotto sotto domandarsi se funzionino delle categorie, diremmo, provvisorie, anche nei modi di parlare dei profeti, nei modi di presentare certe cose. Cioè è molto più facile, più comodo adoperare magari la categoria della contrapposizione, è meno facile, più adulto, però la categoria di solidarietà. Ma dove la provi? In quale frase tu la provi questa? Io la vedrei innanzitutto nelle immagini profetiche. Sono contrapposte, ma non contrapposte in quanto nemico, ma in quanto faccio parte del popolo. Ecco, ricordiamo che il servo di Yahweh, il tema del servo di Yahweh, nasce in un contesto esilico, in un contesto di apatia, di scetticismo, eccetera, dove il profeta compie tutto questo sforzo di ridare significato alla fede del popolo. Questo mi sembra sia un contesto molto importante, e dove il profeta soffre proprio per questa sua solidarietà, questa sua realtà, diciamo, di uomo che è in mezzo. Questo è un primo. Il tema del pastore potrebbe essere anche pure interessante. Non so poi se anche altri temi, ve ne abbiamo già discusso in altri contesti, se anche altri temi possono essere ripresi, tipo il Cristo ha dato se stesso per gli altri, la domanda mia è, oppure ha dato se stesso in riscatto per i molti. La domanda mia è, insomma, la formula molto più frequente è ha dato se stesso. Sì. Dobbiamo sottolineare ha dato se stesso in riscatto, che appare due volte. Al posto di? Al posto di? Dobbiamo sottolineare la frase che viene prima. Ecco. Certo. Cioè la frase che ha dato se stesso. Certo. Cioè è la prima parte della frase che va. Cioè questa capacità di mettersi a disposizione, che comporta il sacrificio, piuttosto che dire sostituisco qualche altro. perché solo mi sembra, se non sbaglio, due volte appare Antilitro, non so se una o due. Sì, sì. Nell'Antico Testamento Antilitro appare una sola volta anche in un testo, cioè Litron più che altro, Litron quello che sia, insomma, no? Che appare così come termine. Ma la domanda è: che significato ha il sacrificio? È sostitutivo o è coinvolgente? È un simbolo della mia partecipazione? Questa è la domanda che... cioè, sono le esemplificazioni che di solito... Cosa pensi? Ma io intendevo... intendevo l'atto sacrificale proprio nella sua piena immersione nella cultualità verso Dio. Verso Dio. Il sacrificio che ha le antichissime origini da Abele a Caino, che si svolge, che rappresenta in fondo la dimensione della sacralità nella sua pienezza, che raggiunge la contraddizione quasi tra la dimensione della sacralità e la dimensione della promessa nel sacrificio di Abramo e di Isacco, che diventa abominio, che diventa inutile, che non è gradito a Dio, perché quello che conta è l'opera santa, che in fondo era in via di diminuzione, come dire, di emarginazione nei tempi di Gesù, ridotto ad un elemento cultuale ma non certamente al punto centrale, mentre il grosso era appunto l'obbedienza all'opera di Dio, l'opera giusta che giustificava. Ecco, in Cristo tutto è ricapitolato. Il sacrificio della croce in questa dimensione puramente cultuale rappresenta la ripresa memoriale del primo atto col quale l'uomo ha cercato di comunicare col divino, esprimendo la comunione col divino e la separatezza stessa. Ha conservato Cristo il perfetto lessico tramandato, ne ha mutato la sintassi, perché egli era la vittima, egli era il sacerdote e via di seguito. Ecco, questa è una grande, stupenda dimensione. È qualcosa che dà luce alla dinamica stessa della rivelazione, che conserva tutti i momenti successivi della significazione, non ne cancella nessuno, ma ne stravolge, ne sconvolge la sintassi per quel capovolgimento che sin dal Salmo 130, ma poi in Giovanni, viene chiaro. È Dio che redime il mondo, non è l'uomo che si redime da sé, non siamo noi ad amare Dio, ma è Dio che ci ama inviandoci il Figlio. Ecco, questa è una dimensione. L'altra, quella del martirio, mi piaceva vederla come una dimensione intraecclesiale, accessibile soltanto a chi ha la fede, e che per un mistero di Dio, per la separazione tra noi e l'escaton, in cui sarà asciugata ogni lacrima, ecco, è una benedizione dolorosa. Il martirio lo vedo, ma questo anche in base ai preannunzi di martirio di Gesù Cristo, a partire da Matteo, che ho citato, Matteo 10, Luca 11, Luca 12, Giovanni 16 e via di seguito. Ogni qualvolta Cristo parla delle sofferenze dei suoi, li colloca mai tra i pagani, perché non ha mai detto ci saranno gli uomini cattivi, l'uomo iniquo e doloso, eroe me, eroe te, che ti perseguiterà. Davide ha riempito i salmi di questa contrapposizione, gli altri che colpiscono noi. E invece Gesù preannuncia un martirio per i suoi che ha sempre a che fare con i sommi sacerdoti, con gli scribi, con i farisei, con i re, con i governatori, cioè con le autorità ecclesiali e politiche. Ma poi con questa affermazione di spada all'interno della famiglia, il che non credo voglia dire, non sia soltanto interpretabile nel senso che bisogna distaccarsi dagli affetti familiari, se uno viene a me e non mi sei patera o tu, non puoi essere mio discepolo. Ma no, non è soltanto in senso di distacco dagli affetti, è che è una realtà drammatica quella del figlio e del padre che sono separati per causa di Cristo. Quindi questa separatezza, questa spada, è una spada che è dentro la comunità cristiana. Allora, da questo punto di vista, è per questo che poi, voglio dire, mi assoggetto con timore e tremore al vostro giudizio, e ovviamente scappo via se le decisioni sono troppo forti, io credo che in modo indiretto, ma certamente corretto, però non proprio centrale, io riconosco martire colui che è catturato dagli Zulu, viene ucciso. Sì, certo, è martire, ha dato il sangue per Cristo, la sua testimonianza è stupenda, eccetera. Ma martire nel senso preannunciato da Gesù Cristo, lo vedo più quello che soffre nella No, ma è una sofferenza profonda di chi nella propria Chiesa, tra i suoi, vive la sua fede in sofferenza. Ecco, questa sofferenza è, io credo, l'autentico, centrale modo col quale, con gioia, noi, come dice Paolo ai Colossesi 2, noi completiamo le sofferenze del Cristo. È questa diuturna sofferenza, ma intraecclesiale. Il martirio, e questo però è anche, diciamo, un invito a prendere cognizione di questa Chiesa, con i suoi scribi, farisei, sacerdoti, sommi sacerdoti, eccetera, che può sempre, è sempre aperta a questo rischio, mai può ritenersene esente. È sempre aperta al rischio di martirizzare, ma lei, non gli altri. Poi che i russi siano atei e condannino i credenti, questa è un'altra dimensione, quella sarà, è la dimensione veterotestamentare del martirio, che è conservata nel Nuovo Testamento, ma è veterotestamentare. Non c'è Claudio Leonardi, il quale avrebbe dovuto il pomeriggio fare il martirio intercristiano e fra cristiani. Pensi che era sarebbe stato interessante. Tu, Lodi, poi sì. Cerpe, andiamo giù, poi ti voglio, uno, due, vedo altre mani, forza. Una piccola osservazione su quest'ultima frase, ho letto che sarebbe non tanto quello che manca nelle passioni di Cristo, perché in greco è il genitivo, quello che delle passioni di Cristo, quindi Cristo è la completezza di tutta la sua passione, e quello che manca in noi, cioè ecco la pienezza, questo martirio di Cristo. Allora mi domando, qual è il rapporto? Se Cristo ha completato questa martiria, nel senso la sua passione non manca di nulla, quello che delle sue passioni dice manca, è quello che manca in noi. Ecco, in noi che cosa manca? Perché dobbiamo, perché c'è questo prolungamento del martirio? È il tema del corpo mistico, cioè è il Cristo che si identifica con i fratelli della Chiesa, quindi per cui lungo i secoli la Chiesa deve continuamente vivere questo martirio in tutte le sue forme, non per completare quello che in Cristo è già completo, cioè è già perfetto, ma qual è il rapporto? Ecco, se il Cristo, se Paolo non dice quello che manca delle passioni di Cristo, è quello che delle passioni di Cristo manca in noi manca qualche cosa, in lui non manca niente. Allora che cos'è che manca in noi? Perché noi dobbiamo continuare? È il prolungamento, ecco, questa è la solita indicazione, il prolungamento del martirio di Cristo nella Chiesa, la Chiesa come corpo di Cristo che si identifica, eccetera, in qualche maniera. Non avevo questo rapporto. Però questo spiega poi anche questa dialettica, perché la Chiesa continua a subire questo martirio quando tutto è completo, vero? Ecco, non so, c'è una posizione protestante, vorrei qui sbagliare, quando loro dicono tutto è compiuto, noi non possiamo altro che dichiarare in fondo i sacramenti che per loro sono soltanto una dichiarazione di fede, cioè un rendere soggettiva questa pienezza di mistero, di passione di Cristo, e rendere, ma noi non aggiungiamo nulla. Cioè non è che il battesimo, che pure è un inserimento della morte di Cristo, poi mi viene in mente un testo di Cirillo che dice ma noi siamo immersi nella morte di Cristo, ma di fatto poi noi non moriamo mica. E come non si spiega che noi di fatto diciamo che siamo morti col Cristo nel battesimo, e poi di fatto dice è una servitudine, perché noi non moriamo, lui sì che è morto, ma noi non moriamo, eppure Paolo dice che noi moriamo. E insomma, anche loro capivano che le cose non si saldavano. Ecco, questo è il mio dramma. Da questo punto di vista la mia risposta è molto deludente, cioè non lo so, ecco il tentativo, però è un tema che mi arrovella, però mi arrovella dal punto di vista filosofico, cioè io credo che qui c'è un problema di comprensione dei termini che non può essere senza una mediazione filosofica e di pensiero forte, lasciamo perdere pensiero debole e tutte le altre robe lì, per capire il senso dell'escaton, di quest'ultimo giorno, che è certamente una dimensione non temporale, e che però noi possiamo soltanto percepire in una relazione di prima e dopo, quindi di passato e futuro. Ecco, cioè io credo che il nocciolo sia lì, il tutto è compiuto di Cristo, è un atto che è della storia di quel venerdì di 2000 anni fa, o è un atto che di per sé è già escaton. Non è un caso che la descrizione di Matteo, mi pare, è apocalittica di quello che succede, si squarcia, risorgono i morti, cioè siamo all'ultimo giorno. Ma allora questo ultimo giorno che... Ecco, come lo cogliamo? La dicotomia già non ancora, non è che sia una separatezza, alcune cose già e altre non ancora, è che sono insieme. E questo è un paradosso che non riesco a capire, però attraverso l'abisso dell'enigma del tempo, che dovrebbe essere meditato. In fondo, dopo la parola d'Agostino, utile alla fede come la parola d'Agostino, non c'è stato altro. Dovremmo forse riprendere anche le rimeditazioni heideggeriane, post-heideggeriane sulla temporalità, eccetera, forse potrebbero essere d'aiuto alla fede, se pensate... Chi è che aveva alzato la mano? Eri tu? No, c'erano davanti prima. Tu? Padre? No. Panteghini? Chi è che ha alzato la mano? Prima. Forza allora, alza, parla. Sì. Sei, dunque? Ah, Tofanello, se scusa, non ti vedo. Beh, riguardo ad uno spirito intraecclesiale, a me pare però sarebbe interessante sottolineare che... Voce. Che alla fine del Vangelo di Marco il centurione dice questo è il figlio di Dio, e cioè il morire è anche un rinuncio al cuore della Chiesa, del pagano, no? Quindi la discriminanza non è solo intraecclesiale, secondo me, ma è anche un rinuncio proprio italiano. E poi io sottolineerei anche, cercherei di capire però anche cos'è che spinge Gesù in certi momenti a sfuggire alla morte e in altri momenti invece a offrirsi, e alla fine a offrirsi alla morte. Qual è discriminante? Perché prima il settore sottolineava che ci si può rendere martiri degli altri e automaticamente vi si rende aggressori. Gesù in certi momenti è sfuggito alla morte. Quando è che bisogna sfuggire? Cioè bisogna parlare di quando bisogna sfuggire, quando invece bisogna rassegnarsi. Rassegnarsi. Perché se si fa martiri degli altri si è realtà di venti. Se ci si fa martiri. Quindi vorrei capire un po'. Sì. Allora, se vuoi. Ma posso rispondere con una battuta. Secondo me bisogna sempre fuggire. Soltanto che quando tocca offrirsi con tutto il cuore. Ecco. So che è una battuta, ma però in fondo c'è un momento di passività di fronte che deve essere rispettato. Cioè il martirio è una questione interiore più che il così dare le occasioni, vellicare, stuzzicare gli altri affinché mi sembra. Il dialetto trentino benvenuto c'è un'espressione chiarissima: non mettere il culo nelle peate. Il centurione, la bella, sì. Figlio di Dio Marco, il centurione, cioè, sì. Riconosce così. Certo. Tu, c'era chi voleva parlare? C'era un altro? Ah, padre Goffi, Don Goffi. Padre Goffi. Monsignore, volevo chiedere, a riguardo di questo tutto è compiuto, riferimento a Gesù. Se è preso in forma assoluta, domando io, trovo difficoltà, naturalmente lo porto alla Chiesa. Non si potrebbe, tutto è compiuto come il suo divenire, non ancora eccetera, che c'è anche in Gesù, dal lato storico, ma non riferirlo dal lato, rapporto alla sua presenza operante nel corpo mistico, solo in rapporto alla sua storia, così che la dialettica, se ho capito bene, di questo martirio nella Chiesa è dovuto non solamente per la carne nostra, ma perché è operante questo Gesù. Non so se ho... Sì, sì, certo. Ma io intendevo veramente il tutto è compiuto, così come molti altri atti escatologici. È negativo, vero? No, no, certo. Questo, no. È solo il senso pasquale, cioè, che è ancora vissuto. Vedendo la cosa sotto il profilo linguistico, della filosofia del linguaggio o della logica matematica, ci sono i soggetti, i termini del discorso che sono progressivamente connotati dal discorso che si sviluppa. Lucia Mondella nella prima pagina dei Promessi Sposi, Non è nessuno, alla fine del romanzo, è una figura che ha acquisito tutta la sua configurazione. Questo vale per tutto. Ogni giudizio storico, si discuteva ieri, è appunto un giudizio che è soggetto alla revoca, alla sospensione. Non può essere altro, come diceva giustamente Bellarmino con riferimento ai dati sperimentali, un giudizio ipotetico. Però esistono alcuni momenti, così come anche nell'ambito della logica, alcuni termini di discorso, che non sono definiti dal discorso, ma sono la chiave sulla base della quale può essere interpretato ogni altro termine. Ecco, in tutto è compiuto, io vedrei Cristo non più come colui che la storia giudica, ma colui che giudica la storia. E quindi il dinamismo c'è, soltanto in questo rovesciamento diverso del giudizio. Non è più un giudizio, ci potrà sempre essere nei confronti del Gesù storico, del Gesù che non ha detto ancora tutto è compiuto, ma voglio dire, non un giudizio della storia, nei confronti di Gesù, ma ecco, con quell'atto Gesù diventa il criterio che consente al fedele di interpretare ogni elemento storico nella sua evoluzione e nella sua dinamica, nella sua crescita. Però insomma bisognerebbe elaborarle molto queste cose. Chi c'è? Sì. Panteghini? Chi è? Stefani? Perché non ci vedo, beh. Poi c'è. Sentiamo tu prima, no? Prima. Allora io? Sì. Due domande. Ah. Una in relazione a un'eventuale decima contrapposizione tra Gesù e martirio, che mi pare decisiva, e cioè la risurrezione. Il sacrificio non implica la risurrezione, il martirio invece lo esige, e non a caso nella coscienza deuterocanonica di Maccabei è collegato, certo, al martirio. Diritto alla risurrezione attraverso il martirio, che è del martire ma non della vittima sacrificata. E poi, seconda domanda, per quel che riguarda il completamento, quello che manca, che pure nella gestione qui discussa, si è sempre fatto riferimento a Colossesi, ma viene anche il passo di Apocalisse 6, cioè dei martiri che attendono la vendetta, quindi la contrapposizione che si ripresenta e invita la pazienza perché il nuovo numero sia completato. Sì, è vero. Ok, grazie. Ha aggiunto una decima? No, no. Sì, io non l'ho aggiunta apposta però, no. Perché non sapevo se poi fosse proprio vero che il sacrificio possa essere reso intelligibile senza la resurrezione. Quello che, lo stavo già scrivendo, poi ho detto no. Però può essere un invito però a capire quanto è più interno. Vabbè, grazie. Allora, sei? Panteghini. Ah, ecco, purtroppo dovete scusarmi perché non ci vedo bene. Panteghini. Sì, io non sono le persone che aggiungerà le contrapposizioni. Volevo piuttosto sentire un senso di queste contrapposizioni tra martirio, sacrificio, di questa dialettica, e anche se in questo distinguere perlomeno ci sia una certa priorità di un elemento sull'altro. Cioè il senso della mia domanda è questo: mi è perso di capire, ed è un po' l'opinione più corrente, che guardando a Cristo e dopo per estensione anche alla Chiesa e alla testimonianza della Chiesa, quasi si dà la priorità al sacrificio, collegandolo con antiche idee rituali, rispetto alla testimonianza, mentre pare che nel Vangelo sia la testimonianza prioritaria e il sacrificio si spieghi per la situazione in cui avviene la testimonianza, scontrandosi contro il rifiuto, nasce il sacrificio che allora prende un senso, altrimenti si cade nell'ottica anseliana e tutti i rischi. Ora, se la priorità era la testimonianza e il sacrificio diviene una situazione di coerenza nella testimonianza, che può prendere connotati più o meno coerenti a seconda delle situazioni, o anche non assumere per nulla, quando non mancano delle opposizioni che portano a questo punto, andrebbe un po' rovesciato anche l'ottica poi che vede il martirio, perché mi pare che si vede il martirio anche nella prassi canonica come proprio nell'ottica del sacrificio adatto sangue e martire, mentre non sarebbe meglio rovesciare l'ottica e vedere invece nell'ottica della testimonianza il martirio, di modo che diventi marginale o secondario il fatto del sangue? Sì, questo è un dibattito che è stato già fatto, no? Lo richiamo. E mi pare anche nella teologia della liberazione e altre cose. Noi nel catechismo degli adulti abbiamo cercato di tenerne conto, cioè invece di parlare immediatamente, isolatamente della croce, certo. Cristo condannato, eccetera, si parla del Cristo profeta, cioè è la profezia, il Cristo profeta che prende posizione, che annuncia, testimonia la verità, eccetera, che è arrivato a quella conclusione. Noi abbiamo quasi isolato il momento croce senza tener conto di ciò che lo ha causato. Allora vorrei appunto sentire se in questa ottica è stata ripresa questa. Sì, io sono pienamente d'accordo su questa impostazione. Io la volevo un po' significare, anche se non l'ho esplicitata, ma appunto nel già e non ancora, o se vogliamo nella linea del tempo, è il futuro che chiama a sé, che dà il significato del passato. Il passato dà la sostanza al futuro, ma dico, il significato è dato dal futuro, quindi è logico che ecco, sia la prospettiva che io vedo nel futuro, cioè quella della testimonianza, della martiria, che il pieno significato viene preso anche per elemento sacrificale, che ha poi tutta una sua sostanza profonda nella storia dell'uomo, da Melchisedec in poi, anzi da Abele Adam in poi. Perciò sì, bisognerebbe un po' svilupparla, perché la preoccupazione però che si ha è che una certa concezione diciamo della storia in termini dialettici o in termini prettamente evolutivi di stampo positivistico, il passato sia un semplice non più, E perciò sia soltanto di qui in poi che invece la dinamica, diciamo, della rivelazione è questo conservare ogni elemento del passato. Il processo di significazione si arricchisce, ma non elimina mai, non c'è Aufhebung, ecco, non c'è cancellazione, immaginazione, ecco. E allora, ecco, questo bisognerebbe un po' studiarlo, ma lei forse ha chiesto un giudizio sulla sua ipotesi. Io ho qualche difficoltà perché non mi sono tanto chiari i criteri di lettura della scrittura. Ci sono qualche volta delle suggestioni illuminanti, lampidi, tra le nuvole nel suo discorso, in certi passaggi dalla sinagoga alla chiesa, che sono significativi, no? Perché per lei il problema è il vero martirio, è quello che i fratelli di fede infliggono. Allora, cioè, qui c'è dietro un certo modo di leggere la scrittura, certamente, no? Non è quello storico critico, filologico critico, è allegorico, è mistico. Ecco, se non si riesce a precisare lo statuto epistemologico del suo discorso, è difficile riuscire poi anche a capire se il martirio è il martirio ad intro, come dire adesso, no? E anche riuscire a capire in che misura, ad esempio, le concezioni apocalittiche hanno influito sull'idea di martirio. Le concezioni apocalittiche portano esattamente alla contrapposizione tra chi sarà giudicato da Dio e chi sarà salvato da Dio, no? Ed è significativo che Gesù, nel Padre mio, non aveva una concezione fondamentalmente apocalittica, non si è mai chiamato martire. Perché nella sua morte non c'è giudizio contro gli uomini. Nessuno, anche i suoi persecutori, vengono perdonati. Non è il momento, non è l'Apocalisse di Giovanni, in cui c'è la vendetta. La morte non è questo momento di giudizio contro una parte dell'umanità. Allora, per riuscire a capire, a discernere quanto di tradizione apocalittica c'è che non è gesuana, e quanto invece, e allora se questa concezione apocalittica è un peso morto che ci si tira dietro, allora lei la elimina dicendo no, è l'Antico Testamento, però l'Antico Testamento che permane, allora permane, ecco, dovremmo riuscire a chiarirci lo statuto epistemologico del suo discorso e il criterio di lettura della Bibbia, che poi è la cosa fondamentale perché è il termine di questo elemento per la fede. Rispondi, dopo concludiamo questo. Beh, cosa posso rispondere? Evidentemente questo testo non è stato tumultuario studio concinnato secondo criteri di corretta epistemologia. Devo dire che, ecco, l'argomento epistemologico è quello che più mi affatica da tempo, proprio anche in relazione alla teologia. Non credo peraltro che sia soltanto l'elemento storico critico che può determinare la lettura, ecco, perciò da questo punto di vista, se vogliamo, beh, in fondo, secondo me è il binomio credo ed intelligere al quale sono fondamentalmente legato, cioè questo cercare di capire quello che credo e quello è il cercare di credere per capire meglio. In questo circolo che poi una certa forma di neotomismo ha cancellato in un semplice sistema di pseudogeometria euclidea con assiomi folli, ma che però invece è un grande progetto. Perciò io penso che anche lì il criterio debba un po' provenire da una ipotesi di intelligenza e quindi anche ipotesi di carattere speculativo, non soltanto legate al puro dato, che tra l'altro potrebbe essere anche contestato sul piano epistemologico, insomma, con tutte le riflessioni post-popperiane sull'argomento. Bene, un volume intero sulla lettura molteplice della Bibbia. Ma questo è fuori, io volevo sapere che lui è fuori da quella cosa che hanno fatto. Beh, si potrebbe chiedere. Bene. Allora, così abbiamo fatto un rodaggio, abbiamo esplorato esclusivamente, ormai dopo. Diamo 20 minuti di pausa, così ci ridestiamo meglio. Grazie.